Ok, ci siamo? No. FP F2011, ci sei? Sulla traccia, andiamo una volta. Io sono in prima fila con in mano una vestaglia. Al camerino quando c'è la tua ragazza che si cambia, le chiedo mi scusi per un rapporto sessuale, le va bene il contrassegno oppure preferisci il bagno? E le ragazze sono andate, sono tutte innamorate. Per loro le domande c'hanno solo due risposte. Per barbietola da zucchero e coste frastagliate, adesso con i film le trovi tutte sverginate. Tre metri sopra il cielo e lo scrivi pure sui muri. Questa gente di merda te lo dico, non la curi. E mettilo in saccoccia la tua testa come roccia. Scusa ma ti chiamo Troia oppure preferisci Moccia? Scusa amore, scusa di tappici nella notte, scusa ma chiavo le corna con le amiche mignotte. Pane ha variato per sfamare queste bocche, ma so io come sfamare quella della quattro giocche. Io non so cosa rimane, qui son tutte puttane, ogni secondo confondono il bene dal male. Giro e penso che fare, poi il pensiero mi assale, mi riprendo attento e vedremo che i miei discorsi filosofici reali mo topici. Vorresti terminassero con un viaggio ai tropici, uccelli esotici e le tue amiche provaci. Ma le mie palle galleggiano come due pietre pomici. Quanti anni hai? 12? Hai genitori medici? La tua fissa deflorata già alla soglia dei 13. Ma tu credici, facciamo in modo di non perderci, che quando avrò 25 anni tu ne avrai 16. Ho comprato una Golf per giocare a golf, col golf bianco nel campo del golf di Sant'Ofemia. E spero con il golf che la macchina non si ingolf, e spero che Dio mi premia. E per intenderci ti mostro la mia collezione di francobolli del posto. Sto lì a contenderci, l'ultimo verme puzzo lente, tu vicino a me a goderci la lontananza dalla gente. Imbracciando una chitarra io analizzo la catarra brasilena più scura, dopo lo sprite è più chiara. Permetti, chiamiamo una fanfara, suoniamo le trombe, spariamo per aria come Giacomo Poretti. Io non so cosa rimane, qui son tutte puttane, ogni secondo confondono il bene dal pane. Giro e penso che fare, ma il pensiero mi assale, mi riprendo, attendo e vedremo che fare. Che fai? È tardissimo, devo tornare a casa. Ma tu continua a dormire tranquillo, prendo un taxi, amore. Che cosa hai detto? Ho detto che sono le due e che prendo un taxi. Tranquillo, sul bar. No, no, voglio capire come mi ha chiamato. Ah già, ha deciso. Scusa ma ti chiamo Coglione. Da dolci visi buoni adesso avvisi da giornale. Da dolci fate Barbie, ora fate le puttane. Non so che vi rimane, ognuno fa come gli pare. Che la dignità è andata a spasso come fosse un cane. Ora vedo donne che ti fanno tremare i sensi. Le vedi e lo osservi un secondo e poi pensi. Amico te lo dico con il cazzo di fidanzi, a meno che non prendi una tuta del Chelsea. Amico ti sei visto bene, non sei step, anzi non siamo neanche buoni a prendere gli avanzi. Noi che facciamo puttanate ma senza compensi. Dio che cerco figa negli spettacoli circensi. Guarda la tipo in fondo vicino a quel ragazzo, yeah. Tu mi dirai che c'è di peggio, ma dai cazzo, sono io che vedo malo, quello era una fallazza. Sono io che vedo bene, quello era marrazzo. Io non so cosa rimane, qui son tutte puttane, ogni secondo confondono il bene dal male. Giro e penso che fare, quel pensiero mi assale, mi riprendo attento e vedremo che fare. Io non so che pensare, qui son tutte puttane, ogni secondo confondono il bene dal male. Giro e penso che fare, poi il pensiero mi assale, poi ci penso attento e vedremo che fare.